Europa 24. Cari ascoltatori, un saluto da Gigi Donelli, benvenuti all'appuntamento con le notizie europee. Diciamo quasi naturalmente ripartiamo dal tema Brexit, ma non c'è solo questo oggi. Dunque, sul primo fronte, la Banca Centrale Europea continua a preparare manovre d'emergenza qualora il referendum in Gran Bretagna dovesse appunto decretare il leave, dunque la partenza del Regno Unito dai 28. Se non sarà un vero e proprio piano B messo a punto da Francoforte, visto che la BCE non ha poi grandi spazi di manovra, avendo già in azione una serie di misure extra per rianimare l'eurozona, le indiscrezioni confermano il piano di coordinamento tra banche centrali nel tentativo di evitare violente tempeste finanziarie. Intanto dal Regno Unito si spende anche il cancelliere dello scacchiere Osborne, dice la Brexit andrebbe solo a beneficio dei ricchi. Il servizio. Mentre i sondaggi danno sempre in vantaggio il fronte del sì all'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, il ministro delle Finanze Osborne minaccia aumenti di tasse e taglia sanità e istruzione, una posizione insostenibile, replicano 57 deputati conservatori. Anche i calcoli sono discordanti. Per il tesoro britannico la Brexit causerebbe un buco da 30 miliardi di sterline e una crescita inferiore del PIL intorno al 6%. L'OCSE parla di 2,7, 7,5 punti in meno, Confindustria di un 3-5%. Ma quali sarebbero le conseguenze per gli altri paesi europei e quindi per l'Italia? Sicuramente una diminuzione dell'export verso la Gran Bretagna, pari oggi al 6% circa, ci spiega Andrea Goldstein di Nomisma. La domanda di importazioni del Regno Unito soffrirebbe a causa della minore crescita o addirittura della recessione. Il secondo elemento è legato al possibile, anzi probabile, deprezzamento della sterlina e quindi renderebbe ancora più care le importazioni dall'area euro. Il terzo elemento è che è legato ovviamente all'erosione della politica commerciale dopo un Brexit. Sicuramente qualcosa cambia. Di una Brexit risentiranno anche turismo e immigrazione. Al momento circa 500.000 di italiani vive in Inghilterra. Secondo il Fondo Monetario invece i rischi saranno solo per i mercati finanziari, mentre non sarà un problema di conti pubblici. Stessa considerazione che trapela dall'Eurogruppo. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Dal fronte Londra-Bruxelles andiamo invece a quello Bruxelles-Mondo. Sono infatti in corso a Bruxelles le giornate europee per lo sviluppo, un appuntamento annuale per fare il punto su quelli che sono i contributi finanziari non solo dell'Unione Europea sul fronte appunto dello sviluppo sostenibile. Il servizio. Oltre la metà dei soldi spesi nel mondo per aiutare i paesi in via di sviluppo proviene dall'Unione Europea e dai suoi stati membri, che l'anno scorso hanno staccato un assegno di 68 miliardi di euro. Di come spendere e perché spendere questi soldi si parla in questi giorni a Bruxelles, con contributi del commissario europeo per lo sviluppo Mimica, dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri Mogherini e dei principali interlocutori nel campo, dall'ONU alla Banca Mondiale. Oggi più che mai questo dibattito è di attualità perché è anche grazie alla cooperazione che l'Europa intende gestire i flussi migratori e l'Italia è in prima linea nel sostenere il Migration Compact. Tuttavia l'efficacia degli aiuti di Bruxelles viene messa in dubbio da molti analisti. Negli ultimi 50 anni, dicono, i governi occidentali hanno versato più di 400 miliardi di euro di aiuti all'Africa, ma metà degli abitanti dell'Africa subsahariana vive ancora in condizioni di estrema povertà, una situazione che è rimasta immutata dal 1981. Perché ora dovrebbe essere diverso? Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Bene, con questo è tutto per questo appuntamento europeo. Naturalmente ci sentiamo domani alla stessa ora. Un saluto. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.